La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. In questa puntata ci occupiamo ancora una volta del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Perché? Perché il premio Nobel per la pace, già detenuta agli arresti domiciliari nella sua casa in Birmania, adesso è stata addirittura spostata in carcere. Il leader dell'opposizione rischia altri 5 anni. Sappiamo che le sue condizioni di salute sono aggravate e quindi la situazione non si risolve, anzi peggiora. Per capire qual è la situazione della Birmania e per capire che cosa sta passando il premio Nobel per la pace, abbiamo con noi Anna Violante, coordinatrice per il Myanmar, appunto la Birmania, della sezione italiana di Amnesty International. Intanto cominciamo a distinguere. Myanmar è come si chiama lo Stato oggi, però generalmente è conosciuto come Birmania. Perché questa differenza nel nome, Anna Violante? Questa differenza nel nome è una differenza che deriva dal fatto che Birmania, era il nome della zona centrale del paese occupata dai birmani. La Birmania è fatta da questa zona centrale e da una cintura di piccole comunità di origine tribale e non tribale che stanno ai confini, diciamo, dall'India, Bangladesh, alla Cina, alla Thailandia, eccetera, le comunità più note apparse alla cronaca sono quelle dei Karen al confine con la Thailandia, vessati da 60 anni di guerra civile con la giunta, lo stato degli Ushan, che è quello dove c'è il triangolo d'oro per intenderci, e quello dei Rohingya, che sono le minoranze musulmane del nord del paese. Quindi ricordiamo, ecco, che è stato dato nel 1988 dall'attuale giunta, quando l'attuale giunta è arrivata al potere, per comprendere tutta la regione. È l'antico nome della regione ed è stato dato per comprendere tutta la regione e dimenticare per sempre l'impero britannico. Quindi Birmania era un nome anche dato dai britannici per comprendere tutto quanto la regione, invece loro si sono riappropriati del Myanmar. Non vorremmo che succedesse che in birmano vuol dire Birmania, cioè il problema è che mi sembra che poi in questi casi succede come il Congo e lo Zaire, che poi prima era Congo, poi diventa Zaire e poi ritorna Congo. Non vorrei che poi, passata la dittatura, come noi speriamo che passi presto, poi si ritorna al vecchio nome inglese, perché è quello magari più conosciuto. Lei come ha... Per una ragione politica, per dimenticare la giunta e i suoi orrori, il nome potrebbe essere di nuovo cambiato. Allora, parliamo della giunta. Chi è, prima di tutto, lo ricordiamo, Aung San Suu Kyi? Aung San Suu Kyi è la leader dell'opposizione birmana, nonché figlia dell'eroe nazionale della Birmania. Il padre fu quello che per primo combatté gli inglesi e fu assassinato un anno prima della proclamazione della Repubblica da un complotto di interno al gruppo dirigente dei nazionalisti birmani. Oggi lei è perseguitata, noi sappiamo che ha gli arresti domiciliari da quanti anni? Da un tempo infinito? Da un tempo infinito, negli ultimi 20 anni agli arresti domiciliari almeno da 13. Gli ultimi arresti domiciliari risalgono al 2003. Non può uscire dal paese, non può fare nulla, non si può allontanare. Non può uscire da casa sua. E non può uscire da casa sua. E l'accusa? L'accusa è di istigazione, di contravvenzione a una legge sulla sicurezza nazionale. Fu arrestata nel 2003 mentre stava facendo una campagna politica nel nord del paese, dei corpi speciali al soldo della giunta in borghese hanno assalito il convoglio politico di Aung San Suu Kyi e hanno seminato morte. Aung San Suu Kyi è stata arrestata e accusata appunto di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, e la sua condanna, la legge prevede una condanna di un massimo di 5 anni. Questi 5 anni sono già scaduti il 27 maggio scorso. I suoi arresti sono stati prolungati di un anno e quest'anno dovevano scadere definitivamente, perché... E invece i generali hanno pensato bene di metterla proprio in prigione, esatto, visto che le sue condizioni di salute si sono aggravate, giusto? Non tanto per le condizioni di salute quanto per l'imminenza delle elezioni, farsa, per quanto siano farsa. Che daranno al 90%, chiaramente, al 99,9% ragione al governo in carica, ovviamente, essendo delle elezioni molto democratiche, tra virgolette, no? Sì, tra l'altro a cui lei non può partecipare perché c'è una clausola nella nuova Costituzione per cui chi ha parenti all'estero non può partecipare, e quindi lei era comunque esclusa dalle elezioni, però naturalmente è pur sempre una voce che, messa in libertà, può agire molto di più che in prigionia. Ecco. Un'ultima domanda, perché siamo in chiusura. La situazione quindi dalla rivolta dei monaci si sta aggravando, perché non si parla più della Birmania, ma non è che non se ne parla perché non c'è più niente. Monaci, ma ad oggi è raddoppiato il numero dei prigionieri politici, che erano circa un migliaio e adesso sono 2000. Di questi 2000, 1000 sono prigionieri di coscienza, cioè accusati di reati di opinione. Noi ringraziamo Anna Violante, coordinatrice per il Myanmar della sezione italiana di Amnesty International. Ricordiamo la premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, o Aung San Suu Kyi, come dice appunto Anna Violante, che è tornata in carcere e le sue condizioni di salute si sono aggravate. Una donna che lotta per la libertà e la democrazia nel suo paese. La quota rosa. E anche oggi ci occupiamo di elezioni europee perché vogliamo vedere che cosa succede nell'estrema sinistra, nella sinistra radicale. Ricordiamo che proprio per seguire gli obblighi di legge noi abbiamo già parlato del PDL e del PD, abbiamo già parlato dell'UDC, dell'IDV e della Lega, e qui oggi parliamo invece di Rifondazione Comunista e di Sinistra e Libertà. Abbiamo con noi due candidate, Diana Pavlovic e Monica Frassoni. Buongiorno. Allora, intanto subito a Diana Pavlovic, dove si trova in questo momento, perché la linea è un po' disturbata. Buongiorno, io mi trovo a Rho, in un campo Rom, dove c'è un'iniziativa fatta dall'AIZO sulla questione Rom, perciò insomma, sono in mezzo a tante donne, bambini e tante persone. Allora, vediamo che Rifondazione Comunista, perché noi facciamo le pulci sulla rappresentanza femminile nelle liste delle europee, ha 26 donne, pari al 36% della lista. Invece Sinistra e Libertà ha 22 donne, pari al 30,5% della lista. Intanto la prima domanda a Monica Frassoni, candidata all'Europea con Sinistra e Libertà, è: ma perché non vi siete accorpati insieme con Rifondazione? Una domanda che poi farò anche alla la candidata di Rifondazione. Insomma, questa sinistra radicale che si divide non è controproducente? Allora, io non faccio parte della sinistra radicale, prima di tutto. Sono una candidata di Sinistra e Libertà che sta con i Verdi, sono presidente del gruppo europeo dei Verdi e sono capolista nord-ovest. E devo dire che non mi riconosco in questa definizione di sinistra radicale, non perché io non sia progressista di sinistra, ma perché credo che sia una specie di ghettizzazione estremamente negativa e che fa un pochino, diciamo così, vuole fare quest'idea che la sinistra è essendo radicale, non può essere una sinistra di governo che quindi partecipa e ha un impatto reale sulle cose. Quindi da questo punto di vista non mi riconosco in questa definizione. Ma allora perché non è andata con domanda, subito. Penso che ci sia stato un tentativo naturalmente di discussione anche con gli amici e di Rifondazione Comunista, con le quali peraltro noi lavoriamo molto bene al Parlamento Europeo, e però ci sono delle differenze piuttosto importanti, e poi soprattutto Rifondazione e i Comunisti Italiani hanno legittimamente scelto di andare da soli, e quindi questo evidentemente ha un po' tagliato la testa al toro. Detto questo, nell'idea di Europa, rispetto anche all'atteggiamento rispetto a questa Unione Europea che deve essere modificata, in particolare rispetto al Trattato di Lisbona ed alcune cose molto concrete sulle quali noi lavoriamo in Europa, esistono delle differenze piuttosto reali che alla fine sono diventate due liste diverse, che ovviamente speriamo entrambe possano superare il 4%, perché di entrambi c'è un grandissimo bisogno al Parlamento Europeo. È per questo che era la domanda, proprio per questo famoso 4%. E allora io dico sempre anche a Diana Pavlovic: non c'era possibilità con Sinistra Libertà di riuscire a trovare un punto di convergenza? Perché rischiate che nessuna delle due liste ce la faccia. Ma sì, io devo dire che sono sempre stata molto favorevole, anzi un desiderio molto forte di una sinistra unita, appunto anche per questo, ma anche perché poi ci sono tante cose che ci accomunano e tante cose in comune. Devo dire che penso che in questo caso c'è stata la separazione, perché si tratta di due strategie diverse, cioè una fondata su un recupero di valori basata su un'identità, e l'altra su una ricerca del nuovo, ma senza, secondo me, non senza poi riuscire a mettere davvero, con un lavoro a lungo termine, davvero a fuoco cosa è obiettivo di questa ricerca, insomma, e cosa sono i risultati di questa, non ci sono ancora risultati di questa ricerca. Ma il nuovo corso di Rifondazione è ancora più radicale di quando avete perso le elezioni politiche, praticamente. Per lei ce la farete a raggiungere questo fatidico 4%? Ma sai, io se penso che non ce la facciamo, non mi sarei candidata. Io sono molto fiduciosa, visto i tempi che corrono e che sentiamo tutti sulla propria pelle. Io penso che, insomma, incrocio le dita, io sono rom, zingara e superstiziosa, perciò non voglio dire nulla, però insomma ho tanta fiducia. Ecco, infatti dal suo nome si evince che lei è proprio di origine italiana, non è? Da dove viene? Io sono di Belgrado, sono serba, sono di origine rom e vivo in Italia dal 99, sono cittadina italiana. Ha trovato in quest'ultimo periodo, proprio perché sappiamo insomma che in questi giorni è stato approvato il disegno di legge sulla sicurezza, condivide l'allarme del capo dello Stato sulla xenofobia? Io sì, ma certo, sono alcuni anni che noi in qualche modo avvertiamo e cerchiamo di avvertire su questo allarme, nel senso che penso che già siamo a un punto molto avanzato di razzismo e xenofobia in questo paese. Questo anche, non so come dire, non si tratta solo dell'uccisione di un ragazzo di colore, di una persona bruciata sulla panchina straniera, eccetera, delle azioni singole delle persone, ma siamo proprio allo stesso livello sul piano istituzionale, no? Si varano delle leggi che sono abbastanza xenofobe e razziste anche. Ok, io devo sempre fare la parte di equilibrio, perché siamo in campagna elettorale, ricordando che il Popolo della Libertà, la Lega, sono già stati ascoltati nel nostro programma, e ricordando che comunque questo governo è stato eletto dalla maggioranza degli italiani. Però io quello che le voglio dire, qual è quindi il suo punto, Diana Pavlovic, qual è il suo scopo della sua elezione al Parlamento Europeo? Che cosa vuole portare in Europa? Faccio una piccola premessa su quello che lei ha detto prima, nel senso che certo è un governo democraticamente eletto, eccetera, ma non mai bisogna dimenticare che anche in Germania, nei tempi brutti, Hitler fu eletto democraticamente, questo non si dice mai. Comunque. Ma io questo lo devo dire per una questione di par condicio, perché noi siamo in campagna elettorale, e ricordare che abbiamo già sentito i candidati del centrodestra. Certo, però bisogna sempre tenere in mente che anche insomma, i governi democraticamente eletti possono rappresentare un pericolo su questo punto di vista, sul punto di vista di razzismo e xenofobia. Vabbè, abbiamo la Costituzione italiana che parla chiaro, poi le leggi vanno sempre vagliate dalla Corte Costituzionale, come noi sappiamo, esatto, che fa benissimo il suo lavoro. Esatto. Quindi se l'opposizione o se dei cittadini pensano che una legge approvata sia incostituzionale, possono rivolgersi alla Corte Costituzionale, che è un organo stabilito, certo, dalla nostra problema. Carta fondamentale. No, vabbè, ma non, certo, voglio entrare, vabbè, in questo, vorrei capire che qual è, impegno, il suo impegno. Il mio impegno soprattutto in questa missione è quello basato sui diritti umani, sui diritti individuali delle persone, che secondo me in questo paese, ma in generale in Europa, corrono un pericolo. Ecco, quindi lei ha detto proprio il punto, perché proprio quello che ricordava, il suo impegno sarà verso i migranti, verso le popolazioni più indifese, verso i deboli, verso la politica dell'Unione Europea contro diciamo così, contro i clandestini. Questo è un po' in sostanza il suo impegno. Sto ricordando una cosa, che difendere i diritti dei più deboli, di quelli più fragili, vuol dire difendere i diritti di tutti, insomma, sostanzialmente. E questo mi sembra un punto molto importante. Monica Frassoni, candidata all'Europea con Sinistra e Libertà. Abbiamo sentito Diana Pavlovic, si impegna proprio per i diritti dei più deboli, per i diritti dei clandestini, un po' anche per contestare la politica dell'Unione Europea, che ha stretto molto la possibilità di accesso nel nostro continente. La sua, qual è la sua priorità da portare al Parlamento Europeo? Senz'altro la priorità della libertà per tutti i cittadini, nuovi e vecchi, è fondamentale, anche perché l'Unione Europea ha delle serie competenze in questa materia. Quindi il fatto che l'Italia si sta ponendo con i respingimenti nel mare, ma non solo, in una situazione di illegalità rispetto anche all'Europa, anche se purtroppo ancora non siamo riusciti a farglielo dire, per ragioni anche quelle ai noi elettorali, è un fatto che noi dobbiamo continuare a utilizzare a livello europeo, facendo delle leggi, se naturalmente avremo la maggioranza, che vanno in una direzione da fomentare appunto l'integrazione, eccetera. Ma l'altra grandissima priorità è ovviamente quella della rivoluzione verde, di questo Green New Deal, che deve essere la vera scommessa anche dal punto di vista economico della riconversione verso un'innovazione appunto ecologicamente sostenibile, che, come dimostrano gli esempi della Germania, delle centinaia di migliaia di posti di lavoro già creati sul tema delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, possono essere un formidabile volano che ovviamente deve essere accompagnato da alcune leggi. Noi peraltro già nella scorsa legislatura abbiamo approvato quello che si chiama il pacchetto energia, che definisce un quadro chiaro di sviluppo e di fomento di questo tipo di investimenti, e adesso bisogna continuare l'opera, approfondirla e non farci distrarre da altre priorità che rispondono esclusivamente dal nucleare, al carbone, eccetera, agli interessi di alcune grandi imprese che sono riuscite a infiltrare, diciamo così, i governi. La vostra battaglia è contro il nucleare, contro le recenti decisioni anche del Parlamento? Ma diciamo che le recenti decisioni del Parlamento sono recenti decisioni che, ahinoi, lei parlava prima di incostituzionalità, hanno dei problemi da questo punto di vista. Purtroppo, contrariamente a quello che dice, per il cittadino non è così semplice fare un ricorso alla Corte Costituzionale, quindi sarebbe meglio fare già delle leggi che non hanno di questi problemi. Ma perché penso che dal punto di vista soprattutto dell'ultimo decreto sulla questione della localizzazione delle centrali nucleari ci sia un serio problema riguardo alle competenze delle regioni. Ma tornando alla competenza invece europea, credo che il lavoro legislativo sia in parte già stato fatto, deve essere aumentato, e bisogna rendere molto chiaro che i soldi europei, che ricordo sono vari miliardi, devono essere diretti verso delle politiche virtuose che sono state riconosciute come tali, e cioè l'efficienza energetica, che ci può fare guadagnare molto di più che una centrale nucleare, e appunto le energie rinnovabili, che dal punto di vista degli investimenti per le imprese sono oggi una scommessa molto ma molto più produttiva del nucleare, che non può funzionare se non ci sono tanti soldi pubblici che lo sostengono. Allora, abbiamo sentito le priorità di Rifondazione Comunista, Diana Pavlovic, proprio per i migranti, e Monica Frassoni invece di Sinistra e Libertà, più concentrata anche sull'aspetto energetico contro il nucleare. Ovviamente chiudiamo qui questa finestra sulle candidate donne alle elezioni europee, dopo aver sentito tutti quanti i partiti. La quota rosa. Buongiorno, allora in questa terza parte parliamo con il ministro Giorgia Meloni, che salutiamo, è un piacere averla con noi, ministro, e l'abbiamo chiamata proprio perché lei ha proposto un'iniziativa per i giovani, mai più vacanze dannose a Ibiza, Mykonos, ma invece nelle caserme dei Vigili del Fuoco, con la Guardia Costiera, con la Marina Militare. Ci vuole spiegare che cosa intende fare? Sì, beh, intanto non abbiamo mai detto che le vacanze a Mykonos sono dannose, semplicemente abbiamo presentato questa iniziativa come un'alternativa, diciamo, a vacanze più scontate, per cui un modo diverso di passare una settimana sostanzialmente in una iniziativa che per noi è educazione civica sul campo, e cioè la possibilità di imparare, grazie anche al coinvolgimento di alcune importanti e gloriose istituzioni, degli elementi di educazione civica che possono poi tornare utili alla sensibilizzazione delle giovani generazioni e quindi anche, insomma, alla difesa ad esempio dell'ambiente, all'attenzione nei confronti del mare, la lotta agli incendi soprattutto durante il periodo estivo boschivi. Insomma, sono sostanzialmente dei campi di una settimana di minimo 10 giorni che vengono passati o presso strutture dei Vigili del Fuoco, che noi abbiamo tre protocolli d'intesa: uno con i Vigili del Fuoco, uno con la Marina Militare e uno con le Capitanerie di Porto. Quello con i Vigili del Fuoco è chiaramente un campo che si concentra soprattutto sul tema della lotta agli incendi e quindi anche tutela, insomma, del nostro ambiente, dell'attenzione ai confronti dell'ambiente. Quelli con la Marina Militare si concentrano soprattutto chiaramente sul rapporto col mare, in particolare ci sono dei corsi velici che la Marina Militare organizza per questi ragazzi, e quelli delle Capitanerie di Porto ugualmente si concentrano sul tema della tutela del nostro ambiente marino, dei fondali e quant'altro. Sono iniziative gratuite per i giovani che aderiscono, chiaramente viene fatta una graduatoria, e la graduatoria dipende soprattutto dal merito scolastico, quindi anche qui, insomma, il tentativo di premiare chi dimostra di voler fare di più, di volersi spendere meglio. 1340 ragazzi che saranno reclutati tra i 16 e i 22 anni, insomma, per combattere un po' il fenomeno del bullismo anche, no? Beh, certamente è una forma, diciamo, un modo per stare insieme, chiaramente per divertirsi, perché comunque è una cosa non triste, diciamola così, però evidentemente diventa anche una forma di, appunto, educazione alla cittadinanza. Io mi diverto sempre a dire che si tende a considerare che l'educazione civica debba essere qualcosa di comunque di triste, no? Cioè comunque di molto serio, molto serioso. In questo caso noi mettiamo insieme due dimensioni, che è la dimensione della condivisione, quindi sono anche gruppi molto numerosi di ragazzi quelli che si muovono all'interno di queste strutture, quindi è un'occasione per fare amicizia, conoscere altri propri coetanei, divertirsi e imparare qualcosa che possa aiutare la sensibilizzazione rispetto ad alcune tematiche centrali di educazione alla cittadinanza, quindi, appunto, la questione ambientale soprattutto è forse la principale, ma credo che anche, insomma, la possibilità di passare una settimana, 10 giorni insieme appunto ai Vigili del Fuoco, piuttosto che insieme ai nostri esponenti della Marina Militare, possa anche diciamo così aiutare questi ragazzi, avvicinare questi ragazzi a queste istituzioni che spesso non si conoscono, o comunque si conoscono per stereotipi, no? Invece sono molto di più, molto più belle e molto diverse, come anche a volte vengono percepite dalle giovani generazioni. Chiediamo un attimo al Ministro di restare con noi, perché poi c'è stata un'altra iniziativa approvata dal Consiglio dei Ministri e vogliamo sentire per par condicio Anna Maria Parente, responsabile nazionale formazione del PD. Vi piace questa iniziativa del Ministro Meloni, vacanze tra caserma e vela, campi estivi del governo? Guardi, quello che fa il governo va rispettato, ma a noi non piace, nel senso che innanzitutto è che non è compito del governo fare questo tipo di azioni. C'è tante associazioni della società italiana, di volontariato, che già fanno questo tipo di azioni per i giovani e quindi secondo noi va sostenuta la società civile che fa questa azione, questo è il compito del governo. Poi c'è il servizio civile per i giovani che non è adeguatamente sostenuto, insomma non sono d'accordo per queste ragioni. L'altra, essendo appunto avendo esperienza di formazione, credo che anche il modello formativo, a me piace dire formativo e non educativo, proposto non sia perfettamente in sintonia secondo me con quelli che i giovani oggi vogliono, tant'è vero che mi pare che al momento dal sito del Ministero risulti che non ci sono molte domande, hanno meno domande di quelle previste, quindi probabilmente un interrogativo va posto. Per la mia responsabilità di formazione del Partito Democratico abbiamo messo in piedi 3 iniziative, abbiamo intercettato circa 2000 giovani. I giovani di oggi hanno meno necessità di essere indottrinati, ma più di trovare dei contenitori più liberi all'interno dei quali esprimersi. Questo è un primo elemento. Un secondo, i giovani desiderano un progetto, un percorso, desiderano degli obiettivi più concreti, con le azioni una tantum non si fa. Vabbè, ma meglio una tantum che nulla, no? Cioè, comunque passare una settimana alla caserma dei Vigili del Fuoco per studiare la prevenzione degli incendi non è una cosa, un'iniziativa non lodevole. È una cosa positiva, peccato che non, probabilmente neanche incontra il favore dei giovani, perché secondo me il Ministro dovrebbe porsi un problema, perché al momento non ci sono tante domande come loro prevedevano, tant'è vero che hanno rimandato i termini del bando. La critica del PD è: i giovani non richiedono questo e poi alla fine non ci sono tante domande, è vero Ministro? No, beh, no, questo non si può dire, perché noi abbiamo pubblicato questa iniziativa, pubblicizzato e dato vita a questa iniziativa credo non più tardi di una settimana fa, quindi ovviamente stiamo facendo il lavoro di raccogliere le adesioni, insomma, e questo poi lo vedremo quando questi dati potranno essere esaustivi, perché ad oggi non lo sono. Chiaramente se io pubblico un'iniziativa una settimana fa e si fa il calcolo di quanti in 7 giorni hanno aderito, evidentemente non saranno milioni di persone. Dopodiché però non mi interessa tanto questo, mi interessa francamente un approccio un po' che mi fa un po' riflettere, nel senso che mi dispiace un po', mettiamola così, perché adesso far passare iniziative di quella che una volta la sinistra, il centrosinistra italiano avrebbe definito cittadinanza attiva, per iniziative di indottrinamento mi sembra un po' forzato. Cioè, voglio dire, tra le due sono molto più iniziative di indottrinamento le corsi di formazione che fanno i partiti politici, che pure secondo me sono un'iniziativa importantissima, tant'è che da dirigente politico del mio partito li ho fatti ugualmente, ma non si può mettere sullo stesso piano il corso di formazione che fa un partito politico con una iniziativa di educazione alla cittadinanza portata avanti da un'istituzione come i Vigili del Fuoco per fare e formazione ai giovani italiani sulla lotta antincendio. A me questa non pare possa passare per iniziativa di indottrinamento, altrimenti no, mi fa molta confusione. No, Ministro, però un po' Repubblica scherzava anche sui famosi campi Hobbit di Messina. Sì, ma Repubblica scherza sempre, però qui noi invece facciamo cose serie. Si può anche parlare tutte le volte che Giorgia Meloni fa qualcosa o che un qualunque esponente della destra mondiale faccia un'iniziativa, si può ricollegarlo anche alla storia della marcia su Roma. Dopodiché però stiamo facendo un'altra cosa. Certo, no, allora io... La polemica ovviamente, politica è legittima, ovviamente. A me diverte anche, io non rispondo mai. Quando ho chiamato il Ministero della Gioventù si è detto che io mi rifacevo a non so quale forma di fascismo, dopodiché in tutta Europa i ministeri si chiamano Ministero della Gioventù, il programma europeo si chiama Gioventù in Azione, quindi io mi sono adeguata a una realtà europea. La blocco per dire, ecco, polemica, però, insomma, la blocco per dire che proprio a proposito della gioventù il Consiglio dei Ministri ha istituito i villaggi della gioventù. Ci vuole spiegare che cosa sono? Beh, allora, non sono i villaggi della gioventù, sono la legge che istituisce le comunità giovanili, che sono appunto, io li ho definiti poi villaggi della gioventù per meglio rendere l'idea di luoghi che vanno immaginati, con campi per fare sport, con sale per fare musica, con palchi per potersi esibire magari iniziative teatrali, con internet, con delle biblioteche, cioè sono dei luoghi nei quali i ragazzi possono trovare un'alternativa a quel deserto che spesso esiste in tante nostre periferie delle grandi città metropolitane, in tanti luoghi dove purtroppo la noia, il disimpegno, l'assenza di luoghi anche fisici crea il disagio che noi conosciamo, hanno la particolarità però di essere interamente gestiti da associazioni composte da ragazzi di norma sotto i 30 anni, quindi non sono solamente luoghi dedicati ai giovani, sono anche luoghi organizzati, quindi in un'ottica di responsabilizzazione e coinvolgimento da associazioni di ragazzi. All'interno delle comunità giovanili che usufruiscono e possono usufruire di fondi pubblici, noi abbiamo stanziato 10 milioni di euro in 2 anni da destinare al bando per le comunità giovanili, quindi ci sono destinazioni fondi pubblici, possono chiaramente utilizzare spazi pubblici o privati con delle convenzioni che faranno direttamente con l'ente concedente. Non è possibile all'interno di questi luoghi operare alcun tipo di discriminazione, alcun tipo di forma di violenza, spaccio o uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, non è possibile che questi luoghi siano in qualche maniera legati a qualunque forma di attività illegale, compresa l'occupazione abusiva. Quindi sono, penso io, una iniziativa importante sul piano dell'aggregazione giovanile, perché gli spazi di questo tipo a livello pubblico non ne sono mai esistiti. Esistono tante esperienze di volontariato e di buona volontà di tante persone che sul territorio nazionale, penso a Pino Maddaloni a Scampia, hanno costruito dei luoghi che potessero rappresentare un'alternativa al disimpegno, alla noia e al degrado, e noi vogliamo cercare a livello centrale anche di dare una mano a queste realtà e di aiutare i ragazzi che volessero spendersi nell'organizzazione di queste realtà. Ringraziamo il Ministro e chiediamo a Anna Maria Parente, un flash, responsabile nazionale formazione del PD, che cosa ne pensa di questa iniziativa del Governo. Guarda, intanto rispetto alle cose che dicevamo prima, io non ho detto che questa è un'iniziativa di indottrinamento. Io penso che quelle messe in campo dal Ministro per la Gioventù non siano corrispondenti alla società di oggi e quello che ogni istituzioni devono fare rispetto alla società civile. Ovviamente, e invece rispetto a questi campi della gioventù? Anche quello è lo stesso discorso, cioè il governo fa l'educazione all'educazione civica, fa i campi della gioventù. Secondo me il governo deve sostenere iniziative che già ci sono nella società. Io ho capito la critica di Anna Maria Parente, non bisogna, cioè bisogna che le politiche giovanili siano coincidenti con quello che già avviene nella società. Invece abbiamo sentito il ministro Giorgia Meloni che vuole dare una mano ai giovani per superare il degrado, quindi sono due opinioni completamente opposte e vabbè, maggioranza e opposizione, questa è la democrazia. La quota rosa. Of inciting and exciting a riot, of being a public nuisance, I make rough seas, I set the jungle on fire, I'm a bad. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Che cosa dire di Marlene Dietrich? Che cosa dire di questa diva? Beh, noi ci riconosceremo tutti con lei, oltretutto una diva che nasce a Berlino nel 20 e poi però decide di andar via, di combattere contro la dittatura. Allora, Marlene Dietrich rivive a teatro, è in scena a Roma, al Quirino, fino al 17 maggio e rivive con Pamela Villoresi, che abbiamo con noi oggi, ospite della Quota Rosa. Buongiorno. Buongiorno. Che cosa prova un'attrice italiana, anche affermata come lei, ad interpretare una grande diva come Marlene Dietrich? Ma intanto una paura folle, perché sempre uno si sente un po' il bruttanatrocolo in mezzo ai cigni, in confronto al cigno, però ha anche la voglia non solo di raccontare un'epoca attraverso di lei, riascoltare appunto le canzoni del cabaret tedesco che sono meravigliose, e poi anche di parlare di temi eterni quali il dramma dell'apparire, che lei sentiva in modo particolare. Stava anche 3 ore prima di uscire dalla camera da letto, anche se doveva andare in fattoria con un amico, questo a pranzo e a cena, e 3 ore perché doveva uscire dalla porta della camera il mito, e usciva il mito. E poi l'altro problema estremamente contemporaneo di quanto facciamo pagare noi tutti persone in carriera dello spettacolo, della politica, ma anche degli affari, del commercio, di qualunque tipo di mestiere, quanto facciamo pagare le nostre carriere alle persone che ci vogliono bene, che ci stanno vicino, che ci amano, ai figli, eccetera eccetera. Quindi c'erano temi estremamente contemporanei, e poi insomma, chiaramente sul palcoscenico rivive un po' una realtà parallela, non è che io sono veramente Marlene. L'autore Giuseppe Manfridi ha fatto un testo, devo dire, molto bello, che però mette a fuoco intanto un po' il viale del tramonto di Marlene. Noi la prendiamo in un primo quadro a 50 anni, quando ormai il cinema la esilia, e lei ritorna proprio al teatro, appunto con le canzoni, una delle quali abbiamo sentito prima. Che era la canzone che poi ricordiamo cantavano tutti i soldati tedeschi durante la guerra, e che era versata dal regime, perché Marlene Dietrich ha avuto una vita molto lunga, appunto è nata nel 1901, mi correggo, poi nel 1920 è arrivata a Berlino dove ha fatto i film muti, poi è andata via durante la guerra e poi muore nel 1992, quindi insomma un arco di tempo, un secolo praticamente. Esatto, ma lei ebbe appunto il coraggio di dire di no a Hitler, Ribbentrop, si rifiutò di essere la diva del regime e riuscì a uscire dalla Germania per il rotto della cuffia, non certa che le avrebbero dato il permesso i tedeschi per uscire, gli americani per lavorare in America, quindi cioè, molto coraggiosa. E poi faceva gli spettacoli appunto per le truppe americane, lei rientrò in Berlino con la divisa americana, tant'è vero che quando poi andò a cantare a Berlino più che sessantenne, appunto verso il 64, con rimpostata da Bart Bacharach, col quale ebbe una lieve storia d'amore, lui era appena trentenne, infatti lei da regina della seduzione diventa un po' una questuante dell'amore, un quadro molto straziante quello. Beh, ancora quando ritornò in quel periodo lì a Berlino c'era chi scriveva ai cartelli Marlene vattene a casa, la riteneva una traditrice della patria. Quindi lei non affronta, Pamela Loresi, in questo spettacolo il cosiddetto film L'Angelo Azzurro, che è stato poi quello che l'ha lanciata, ma La vita di una diva al tramonto. Quindi la prima parte parla di questo rientro a Berlino e la seconda parte? No, la prima parte è quando lei ritorna al teatro, siamo a Londra e c'è tutto il rapporto ancora con Josef von Sternberg, che era appunto il suo Mefistofele, il suo scopritore, e col quale ha fatto i 7 film più importanti della sua carriera. Tra i quali L'Angelo Azzurro. Il primo assoluto, sì. Che fu attraverso quel provino appunto che la scoprì, questo Josef von Sternberg, e la lanciò nel panorama mondiale del firmamento cinematografico. Questa, c'è una seconda parte appunto dove siamo a Berlino col giovane Bart Bacharach, che lei è sessantenne, una terza parte più che settantenne, ormai malata, alcolista, nell'ultimo spettacolo che ha fatto a Toronto prima di andare in scena, con uno scontro violentissimo con la figlia, che ha finito poi per detestarla così tanto da scrivere poi una biografia pubblicata dopo la morte di Marlene, che è veramente impietosa, tanto che noi nello spettacolo siamo stati molto più garbati di quanto non lo sia la figlia. Quindi diciamo affrontiamo un po' un viale del tramonto e ci piace vederla dietro le quinte, ecco, più che nel momento di splendore. Solo alla fine che lei apparirà in questo vestito di lamè dorato, si accendono i riflettori e a quel punto finisce lo spettacolo, insomma. Un'ultima domanda brevissima: che cosa le ha dato a lei Pamela Villoresi l'aver studiato Marlene Dietrich? Cioè, domani ci metterà 3 ore per uscire dalla camera da letto? No, non ci penso neanche, però devo dire che è la soddisfazione di un sogno realizzato, perché tra l'altro io ho la mamma tedesca, la nonna austriaca, e quelle erano canzoni che io ho sentito fin da bambina, quindi c'è un po' anche tutto un mio mondo, una mia tradizione, no? Una mia cultura un po' del DNA. Ho chiesto a Giuseppe di scrivermi questo testo, lui non ne era convinto, poi ha fatto un capolavoro. Maurizio Panici ha fatto un'ottima regia, mi ha messo intorno degli attori straordinari, costumi bellissimi, una bella scenografia, e poi il successo del pubblico che corona questo spettacolo, devo dire, fa di tutta questa esperienza veramente un sogno realizzato. Cerchiamo di avere anche noi una Marlene Dietrich dentro di noi, essere più sicure come donne. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quatarosa@radio24.it. Una buona giornata da Marlene Dietrich e da Elisabetta Fiorito.